ogni errore che ho commesso ho sempre a posto la mia firma. Non mi sono mai nascosto come chi scappa come un birla. Ho pensato voglio finirla, poi mi son detto voglio capirla. Finché non avrò le risposte che cerco fra, voglio viverla. Forse non l'avrò mai, ma se racconto i miei guai capirai che non saprai mai come si sente chi hai davanti. Ma ormai se è fatto tardi già sai che non si cambia vita, tutta in salita, una missione ardita dalla meta ambigua. Muto quando ho bisogno, canto e sento che sogno. Ho tanti sbagli e rimpianti, ho causato pianti ma non me ne vergogno. Faccio ritorno alla realtà dove non c'è etica. Tutto rime, dedica inedita che porto gli errori che ho fatto nel cammino percorso. Se vedremo poi se è vero che chi semina raccoglie. Se la pianta poi crescendo perderà le foglie. Radici salde a terra, testa alta con orgoglio. Ciò che ho fatto fiorirà o rimarrà un germoglio. In camera da solo con una canna in mano, non sono sereno, penso ai giorni che butto in vano. Quanti ne butteremo al tempo passato in studio con i miei fra, e a quanto tempo avrò ancora per stare qua. Scusa ma se ho fatto brutte cose, ma sta vita è pungente come le rose. E mi lacera la pelle appena mi sfiora, ma mi fa capire che sono qua e che vivo ancora, che combatto per qualcosa in sta vita penosa. Non mollo mai, qui va avanti solo chi osa. E oso sempre come un serpente in un brutto ambiente, indipendente, non indifferente tra la gente che non parla, che non sente, che non vede niente. Certe cose le impari dalle brutte esperienze. Sono sicuro che finisce tutto con gli occhi chiusi. Credete in una vita migliore, illusi. Da solo, ultima canna, la faccio adesso oppure dopo? Bella domanda. Magari ne fumo mezza e la lascio lì. Ora che ho iniziato a scrivere non vorrei mai interrompermi. La mia vita è un puzzle gigantesco, non so se lo completerò mai, ma devo insistere. Mio padre mi ha sempre insegnato che non ce la faccio e non ci riesco. Dentro il mio vocabolario questi concetti non devono esistere. Io prendo piste che comportano del rischio sempre. Io prendo miste che comportano l'essere miscio sempre. E sempre si tende a esagerare. Quando ti svegli coperto dai puffi non esiste un santo a cui ti possa aggrappare. Non compare se hai bisogno scompare. Vorrei mi prendesse un fulmine ogni volta che rispondo, ma la mia madre mi sfonda per non pensare mentre mi scontro con le mie pare. Poi riscontro che predico bene, razzolo male. Vado via da qui, domani è lunedì e vado a scuola. Tappo i miei pensieri con la colla stick. L'Italia non è un film, il lavoro non si trova. Intanto i brividi per un altro amico caduto nella roba. Che dice prova, io dico cosa, smetti con sta droga. Mentre penso al giorno in cui mia sorella si sposa. E se sarò una brava persona, se avrò una fissa dimora. Se farò rap ancora o se scapperò da qua come corona. Stiamo tristi e cupi, sprovvisti degli aiuti. Voglio fare mille dischi, Ubi Rookies, la mia crew insieme ai Mad facciamo uno stand di fumi. Ash e Food, questo è il nostro loop di Uzi. Tu che ti illudi, non sei capace se non la chiudi. Pensi in abusi, ma insieme passiamo giornate pur restando confusi, pur accettando rifiuti e ricevendo brutti musi. Io sto insieme alle teste calde con i neuroni fusi.